non me le vivo mai, cioè nel senso anche questo fatto qua me le vivevo male, perché dicevo che non c'entrava molto con l'umore del disco, cioè tra me e me non pensavo fosse necessario farlo uscire subito, boh, era più farla che farci qualcosa, no? Poi dopo giustamente è uscita, perché anche tra me e me dicevo vabbè, ormai l'ho fatta sta cosa, ha comunque un potenziale, no? Però mi dovevo rispondere a un sacco di domande per farmelo stare bene, e ne uscivano in continuazione sempre di più. E allora alla certa ho detto basta, non mi interessa più, cioè nel senso non mi interessa più rispondermi a queste domande. So perfettamente che non è in linea secondo me con l'umore del disco come opera totale. Ho deciso di metterlo come ghost track, infatti, dentro il disco, certo. Proprio perché non... cioè non ci stava bene, semplicemente, come mettere, non lo so, un pezzo di Michael Jackson in un disco di... boh, di Elliott Smith, cioè non ha... E poi alla fine però... Non ha nessun senso. E, no, poi alla fine è andata bene, ma il fatto di andare bene non è... cioè non c'entra niente con il fatto di star bene con se stessi e fare le cose. C'entra col fatto che hai fatto una canzone bellissima. Ti ringrazio. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena, insieme a noi Calcutta. Ancora un saluto da Marta Cagnola.